5B. Ascolta e completa. Se non vuoi mangiare, non mangiare. Se non vuoi studiare, non studiare. Se non vuoi telefonare, non telefonare. Se non vuoi aspettare, non aspettare. Se non vuoi giocare, non giocare. Se non vuoi riposare, non riposare.